Quello fu l'anno delle inondazioni, che rimasero registrate sui libri scolastici e nella memoria dei nonni. Il diluvio rase al suolo centinaia di case e quando alla fine la burrasca si placò e l'acqua iniziò a calare, una serie di piccole scosse che vennero vissute come un castigo divino distrussero completamente tutto quello che i rovesci avevano rammollito. Gli sciacalli vagavano fra i detriti, approfittando della confusione per rubare nelle case, e i soldati ricevettero l'ordine di giustiziare senza indugi chi fosse stato sorpreso a commettere tali soprusi. Ma esaltati dalla crudeltà, iniziarono a distribuire sciabolate solo per il gusto di sentire i lamenti delle vittime e si dovette revocare l'ordine prima che perdessero la vita anche gli innocenti. Rinchiuso nell'hotel a curarsi un raffreddore e ancora indebolito dalla settimana di coliche, Jacob Todd trascorreva le giornate nella disperazione provocata dall'incessante rumore di campane delle chiese che chiamavano a penitenza, intento a leggere vecchi giornali e a cercare qualcuno con cui giocare a carte. Fece un'incursione in farmacia alla ricerca di un tonico che rinvigorisse lo stomaco. Ma il negozio si rivelò essere uno stanzino caotico, gremito di polverose boccette verdi e blu, in cui un commesso tedesco gli offrì olio di scorpione e spirito di lombrichi. Per la prima volta rimpianse di trovarsi tanto lontano da Londra. Di notte riusciva a malapena a dormire a causa della gazzarra e delle risse tra ubriachi e dei funerali che si svolgevano tra mezzanotte e le 3 di mattina. Un nuovo cimitero si trovava in cima a una collina e si affacciava sulla città. Con il temporale si aprirono dei buchi e alcune tombe rotolarono dai pendii in una confusione di ossa che livellò tutti i defunti alla medesima indegnità. Molti commentavano che i morti stavano meglio 10 anni prima, quando le persone facoltose venivano sepolte nelle chiese, i poveri nelle scarpate e gli stranieri sulla spiaggia. Questo è un paese bizzarro, concluse Jacob Todd, con un fazzoletto legato sul viso, perché il vento trasportava i miasmi nauseabondi della catastrofe che le autorità combattevano con grandi falò di eucalipto. Non appena si sentì meglio, si affacciò per vedere le processioni. In genere non richiamavano l'attenzione perché ogni anno si ripetevano identiche durante i 7 giorni della settimana santa e nelle altre festività religiose, ma in quell'occasione si trasformarono in vere celebrazioni di massa, nelle quali si chiedeva al cielo la fine del diluvio. Dalle chiese uscivano lunghe file di fedeli guidate da confraternite di cavalieri vestiti di nero che trasportavano sulle portantine le statue dei santi vestiti con splendidi abiti ricamati d'oro e tempestati di pietre preziose. Una colonna portava un Cristo in croce con la corona di spine intorno al collo. Gli spiegarono che si trattava del Cristo di maggio, che era stato trasportato per l'occasione da Santiago, perché era la raffigurazione più miracolosa del mondo, l'unica in grado di modificare il clima. 200 anni prima, un terribile terremoto aveva raso al suolo la capitale e la chiesa di Sant'Agostino era interamente crollata, salvo l'altare in cui si trovava quel Cristo. La corona era scivolata dalla testa al collo e lì l'avevano lasciata perché ogni volta che si era cercato di ricollocarla al suo posto, la terra aveva ripreso a tremare. Le processioni riunivano una moltitudine di frati e monache, di beate esangui per i numerosi digiuni, di gente umile che pregava e cantava a squarciagola, di penitenti con sai di tela grezza e di flagellanti che si fustigavano le schiene nude con sferze di cuoio, alle cui estremità si trovavano affilate borchie metalliche. Alcuni cadevano esanimi e venivano curati da donne che pulivano le piaghe aperte e offrivano loro da bere, ma non appena si riprendevano venivano nuovamente spinti nella processione. Passavano file di indigeni che si martirizzavano con insano fervore e bande di musicisti che suonavano inni religiosi. Il rumore delle suppliche lamentose sembrava un torrente d'acqua impetuosa e l'aria umida sapeva di incenso e di sudore. Sfilavano processioni di aristocratici, vestiti lussuosamente ma di nero e senza gioielli, e altre del popolino, scalzo e ricoperto di stracci, che si incrociavano nella stessa piazza senza toccarsi né confondersi. A mano che avanzavano, Il clamore e le dimostrazioni di compassione aumentavano e si facevano più intense. I fedeli ululavano chiedendo perdono per i loro peccati, certi che il maltempo fosse il castigo divino per le loro mancanze. I pentiti accorrevano in massa, le chiese risultarono poche e per consentire loro di confessarsi, alcuni sacerdoti si collocarono in fila sotto tendoni e ombrelli. All'inglese lo spettacolo parve affascinante. In nessuno dei suoi viaggi aveva presenziato qualcosa di tanto esotico e al contempo lugubre. Abituato alla sobrietà protestante, gli sembrava di essere tornato in pieno Medioevo. I suoi amici di Londra non gli avrebbero mai creduto. Persino da una prudente distanza poteva cogliere il fremito da bestia primitiva e sofferente che percorreva a ondate la massa umana. Si arrampicò a fatica sulla base di un monumento nella piazzetta di fronte alla chiesa della Matrice, da cui poteva godere una visione panoramica della folla. All'improvviso sentì che veniva tirato per i pantaloni. Abbassò lo sguardo e vide una bambina spaventata con una mantella sul capo e il viso rigato da sangue e lacrime. Si scansò bruscamente, ma era troppo tardi, gli aveva già sporcato i pantaloni. Imprecò e cercò di allontanarla a gesti, visto che non ricordava le parole adatte per farlo in spagnolo, ma rimase sorpreso quando lei replicò in perfetto inglese che si era persa e che forse lui poteva accompagnarla a casa. Allora la guardò più attentamente. «Sono Eliza Somers, si ricorda di me?» mormorò la ragazzina. Approfittando del fatto che Miss Rose si trovava a Santiago per farsi fare il ritratto e che Jeremy Somers, cui si erano inondate le cantine degli uffici, appariva molto di rado a casa in quei giorni, aveva pensato di andare alla processione, aveva tanto tormentato Mama Fresia che quest'ultima alla fine aveva ceduto. I padroni le avevano proibito di menzionare riti cattolici o indigeni davanti alla bambina, e men che meno di farvela assistere, ma anche lei moriva dalla voglia di vedere il Cristo di maggio almeno una volta nella vita. I fratelli Somers non sarebbero mai venuti a saperlo, aveva concluso, e quindi le due se l'erano svignata in silenzio da casa, erano scese per la collina a piedi, erano salite su un carro che le aveva lasciate vicino alla piazza e si erano unite a un gruppo di indios penitenti. Tutto sarebbe andato secondo il programma se nel tumulto e nel fervore di quel giorno Eliza non si fosse liberata dalla mano di Mamma Fresia che, contagiata dall'isteria collettiva, non se n'era accorta. Aveva iniziato a gridare, ma la sua voce si era persa nel clamore delle invocazioni e dei tristi tamburi della confraternita. Si era messa a correre in cerca della sua tata, ma tutte le donne sembravano identiche sotto le mantelle scure e i suoi piedi scivolavano sull'acciottolato ricoperto di fango, di cera di candele e di sangue. Ben presto le diverse colonne erano confluite in un unico ammasso di persone che si trascinava come un animale ferito mentre le campane rintoccavano impazzite e le sirene delle barche in porto suonavano. Non fu in grado di capire per quanto tempo fosse rimasta paralizzata dal terrore. Poi, a poco, nella sua mente erano iniziate a schiarirsi le idee. Nel frattempo, l'esagitata processione si era calmata. Si erano tutti inginocchiati e su un palco di fronte alla chiesa il vescovo in persona stava officiando una messa cantata. Eliza pensò di incamminarsi verso Cerro Alegre, ma temette di essere sorpresa dal buio prima di arrivare a casa. Non era mai uscita da sola e non sarebbe stata in grado di orientarsi. Decise di non muoversi fino a quando la folla non si fosse dispersa, allora forse Mamma Fresia l'avrebbe trovata. In quel momento i suoi occhi avevano incrociato un uomo dai capelli rossi aggrappato al monumento della piazza e aveva riconosciuto il malato di cui si era presa cura con la tata. Senza esitare si era fatta strada fino a raggiungerlo. «Che cosa fai qui? Sei ferita?» domandò l'uomo. «Mi sono persa. Mi può riportare a casa?» Jacob Todd le pulì il viso con un fazzoletto e la esaminò rapidamente, verificando che non aveva riportato ferite evidenti. Concluse che il sangue dovesse essere quello dei flagellanti. «Ti porterò all'ufficio di Mr. Somers.» Ma lei lo pregò di non farlo, perché se il suo protettore fosse venuto a sapere che era stata la processione, avrebbe cacciato Mamma Fresia. Todd iniziò a cercare una carrozza a nolo, operazione non semplice in quel frangente, mentre la bambina camminava silenziosa, stringendogli la mano. Per la prima volta nella sua vita L'inglese provò un sussulto di tenerezza per quella piccola mano tiepida avvinta alla sua. Di tanto in tanto la guardava di nascosto, commosso da quel viso infantile e dai neri occhi a mandorla. Alla fine si imbatterono in un carretto trainato da due muli e il conducente accettò di portarli sulla collina per il doppio della tariffa normale. Fecero il viaggio in silenzio e un'ora dopo Jacob Todd lasciava Eliza di fronte a casa. Lei si congedò ringraziandolo, ma senza invitarlo a entrare. Lui la guardò allontanarsi, piccola e fragile, coperta fino ai piedi dalla mantella nera. All'improvviso, la bambina fece mezzo giro, corse verso di lui, gli gettò le braccia al collo e gli stampò un bacio sulla guancia. «Grazie», disse ancora una volta. Jacob Todd ritornò all'hotel con lo stesso carretto. Di tanto in tanto si toccava la guancia, sorpreso da quel sentimento dolce e triste che la bambina gli ispirava. Le processioni servirono non solo ad accrescere il pentimento collettivo, ma anche, come poté verificare lo stesso Jacob Todd, a mettere fine alle piogge, giustificando per l'ennesima volta l'ottima reputazione del Cristo di maggio. In meno di 48 ore il cielo si schiarì e un timido sole spuntò a portare una nota di ottimismo nel concerto di disgrazie di quei giorni. Per colpa delle burrasche e delle epidemie erano passate in tutto 9 settimane prima che riprendessero gli incontri del mercoledì dai Summers e ne dovettero passare altre ancora prima che Jacob Todd osasse alludere ai suoi romantici sentimenti con Miss Rose. Quando infine si decise, lei finse di non aver sentito, ma messa alle strette dalla sua insistenza, se ne uscì con una risposta mortificante. «L'unica cosa positiva del matrimonio è la vedovanza», disse. «Un marito è un abito che, per quanto brutto, veste comunque», replicò lui senza perdere il buon umore. «Non nel mio caso. Un marito sarebbe un intralcio e non potrebbe darmi niente che io già non abbia. Figli, magari. Ah, ma quanti anni mi dà, Mr. Todd? Non più di 17. Non si prenda gioco di me. Fortunatamente ho Eliza. Sono testardo, Miss Rose. Non mi do mai per vinto. Gliene sono grata, Mr. Todd, ma a vestire non è un marito, sono i molti pretendenti». Comunque fosse, Rose fu la ragione per cui Jacob Todd si fermò in Cile ben oltre i 3 mesi pattuiti per la vendita delle Bibbie. I Summers furono un tramite sociale perfetto e grazie a loro gli si aprirono facilmente le porte della prospera colonia straniera. Disposta ad aiutarlo nella presunta missione religiosa in Terra del Fuoco. Si ripromise di documentarsi sugli indios patagoni, ma dopo aver dato uno sguardo sonnolento ad alcuni libercoli in biblioteca, capì che era irrilevante sapere o non sapere, dal momento che a tale proposito l'ignoranza era collettiva. Bastava dire quello che la gente desiderava sentire e per fare ciò poteva contare sulla sua comunicativa. Per piazzare il carico di Bibbie ai potenziali clienti cileni dovette migliorare il suo spagnolo incerto. Grazie ai 2 mesi passati in Spagna e al suo buon orecchio, riuscì a imparare meglio e più velocemente di quanto non avessero fatto molti britannici arrivati in Cile 20 anni prima. All'inizio celò le sue idee politiche troppo liberali, ma notò che a ogni riunione sociale lo incalzavano con le domande e che si trovava sempre circondato da un gruppo di ascoltatori stupiti. I suoi discorsi abolizionisti, egualitari e democratici scuotevano dal torpore quelle brave persone, offrivano spunti per interminabili discussioni tra gli uomini e per terrorizzate esclamazioni delle signore mature, ma attiravano irrimediabilmente le più giovani. L'opinione generale lo definiva fanatico e le sue idee incendiarie erano considerate divertenti, mentre il suo dileggiare la famiglia reale britannica non piaceva per niente ai membri della colonia inglese, per i quali la regina Vittoria era intoccabile come Dio e l'impero. La sua modesta, ma più che accettabile rendita gli permetteva di vivere piuttosto agiatamente, senza aver mai lavorato sul serio, e ciò lo ascriveva alla categoria dei cavalieri. Non appena si scoprì che era libero da legami, non mancarono solerti fanciulle in età da marito che cercarono di acciuffarlo, ma dopo aver conosciuto Rose Summers, Todd non aveva occhi che per lei. Si chiese migliaia di volte perché mai la giovane fosse rimasta nubile e l'unica risposta che quell'agnostico razionalista seppe darsi fu che il cielo l'aveva destinata a lui. Fino a quando mi tormenterà Miss Rose? Non ha paura che mi stanchi di inseguirla? Scherzava con lei. Non si stancherà, Mr. Toad. Inseguire il gatto è molto più divertente che catturarlo, replicava. L'eloquenza del falso missionario fu una novità in quell'ambiente e non appena si venne a sapere che si era studiato con coscienza le sacre scritture, gli venne offerto di predicare. Esisteva un piccolo tempio anglicano, mal visto dalle autorità cattoliche, ma la comunità protestante si riuniva anche nelle case private. Quando mai si è vista una chiesa senza vergini e diavoli? I gringos sono tutti eretici, non credono nel Papa, non sanno pregare, passano il tempo a cantare, non fanno neanche la comunione, borbottava mamma Fresia, scandalizzata quando toccava ai Somers organizzare la funzione domenicale. Toad si preparò a commentare brevemente la fuga degli ebrei dall'Egitto per poi fare riferimento alla situazione degli immigrati che, come gli ebrei biblici, dovevano ambientarsi in terra straniera. Ma Jeremy Somers lo presentò al pubblico come missionario e gli chiese di parlare degli indios della Terra del Fuoco. Jacob Toad non sapeva né situare la regione né l'origine di quel nome così suggestivo, ma riuscì a commuovere fino alle lacrime l'uditorio con la storia di tre selvaggi catturati da un capitano inglese per essere portati in Inghilterra. In meno di 3 anni quei poveri infelici che vivevano nudi nel freddo glaciale ed erano soliti compiere atti di cannibalismo, disse, giravano vestiti decorosamente, si erano trasformati in buoni cristiani e avevano appreso le buone maniere civilizzate, arrivando persino ad apprezzare la cucina inglese. Non specificò, tuttavia, che non appena furono rimpatriati, tornarono immediatamente alle antiche abitudini, come se non fossero mai stati sfiorati dall'Inghilterra o dalla parola di Gesù. Su suggerimento di Jeremy Somers, venne organizzata all'istante una colletta per finanziare l'impresa della divulgazione della fede. I risultati furono talmente incoraggianti che il giorno successivo Jacob Toad fu in grado di aprire un conto nella succursale di Valparaiso della Banca di Londra. Il conto veniva settimanalmente alimentato dai contributi dei protestanti e continuava ad aumentare, nonostante i frequenti prelievi con cui Toad finanziava le sue spese personali quando la sua rendita non era sufficiente a coprirle. Più denaro veniva depositato, più si moltiplicavano gli ostacoli e i pretesti per rimandare la missione evangelizzatrice. E così passarono 2 anni. A Valparaiso Jacob Toad arrivò a sentirsi a suo agio come se vi fosse nato. Cileni e inglesi avevano in comune vari tratti del carattere, risolvevano qualsiasi cosa con avvocati e curatori fallimentari. Erano abitudinari e assurdamente legati alla tradizione e ai simboli della patria, si vantavano di essere individualisti e avversi all'ostentazione, che disprezzavano in quanto simbolo dell'arrivismo sociale. Erano apparentemente gentili e controllati, ma capaci di grande crudeltà. A differenza degli inglesi, però, i cileni erano terrorizzati dall'eccentricità e non c'era cosa che temessero quanto rendersi ridicoli. Se parlassi un castigliano corretto, pensava Jacob Toad, mi sentirei davvero a casa. Si era sistemato nella pensione di una vedova inglese che offriva protezione ai gatti e sfornava le torte più rinomate del porto. Dormiva con 4 felini sul letto, in buona compagnia come non era mai stato, e tutte le mattine la colazione offriva le torte tentatrici della padrona di casa. Entrò in contatto con cileni di ogni classe sociale, dai più umili che conosceva durante le scorrerie per i bassifondi del porto, ai più elevati socialmente. Jeremy Somers lo presentò al club dell'Unione dove fu accettato come membro invitato. Solo gli stranieri di riconosciuta importanza sociale potevano fregiarsi di tale privilegio, dato che si trattava di una piccola enclave di proprietari terrieri e di politici conservatori, in cui il valore dei soci si misurava dal cognome. Le porte gli si spalancarono grazie alla sua abilità con le carte e i dadi. Perdeva con tale grazia che erano in pochi ad accorgersi di quanto guadagnava. Divenne amico di Agustin Del Valle, proprietario di terreni agricoli in quella zona e di greggi di pecore nel sud, dove non aveva mai messo piede perché poteva contare su fattori giunti appositamente dalla Scozia. Questa nuova amicizia gli consentì di visitare le austere dimore delle famiglie aristocratiche cilene, magioni quadrate e buie dalle ampie stanze semivuote, arredate senza raffinatezza, con mobili pesanti, candelabri funerei e una serie di crocefissi sanguinolenti, vergini di gesso e santi vestiti come antichi nobili spagnoli. Erano case proiettate verso l'interno, chiuse verso la strada da alte grate di ferro, scomode e rustiche, ma dotate di freschi corridoi e di patii interni disseminati di gelsomini, aranci e rosai. Quando sbocciò la primavera, Agustín del Valle invitò i Somers e Jacob Todd in una delle sue tenute. Il viaggio si rivelò un incubo. Un cavaliere poteva coprire quel tragitto a cavallo in 4 o 5 ore, ma la carovana della famiglia e degli ospiti partì all'alba e non arrivò se non a notte inoltrata. I Del Valle si spostavano su carri trainati da buoi in cui erano stati collocati tavoli e divani di felpa. Erano poi seguiti da una processione di muli con i bagagli e di braccianti a cavallo armati con primitivi schioppi per difendersi dai banditi che erano soliti tendere agguati alle curve delle strade. Alla snervante lentezza degli animali andavano aggiunte le buche della strada in cui le stanghe dei carri si dissestavano e le frequenti soste per riposare durante le quali i domestici servivano le vivande contenute nelle ceste in mezzo a un nugolo di mosche. Todd non si intendeva di agricoltura, ma era sufficiente uno sguardo per capire che su quella terra fertile regnava l'abbondanza. La frutta cadeva dagli alberi e marciva per terra senza che nessuno si prendesse la briga di raccoglierla. Nella proprietà ritrovò lo stesso stile di vita conosciuto anni prima in Spagna. Una famiglia numerosa, unita da intricati legami di sangue e da un codice d'onore inflessibile. L'anfitrione era un potente patriarca di tipo feudale che teneva in pugno i destini dei suoi discendenti e che ostentava con arroganza un albero genealogico riconducibile fino ai primi conquistatori spagnoli. «I miei trisavoli», raccontava, «percorsero più di 1.000 chilometri rivestiti di pesanti armature di ferro, attraversarono montagne, fiumi e il deserto più arido del mondo per fondare la città di Santiago. All'interno della famiglia era simbolo di autorità e dignità, ma al di fuori della sua classe aveva fama di essere una canaglia. Vantava una prole di bastardi e la cattiva fama di aver liquidato più di un fittavolo in uno dei suoi leggendari accessi di malumore, ma di queste morti, come di tanti altri peccati, non si faceva mai parola. Pur essendo sulla quarantina, la moglie sembrava un'anziana tremula e sottomessa, sempre in gramaglie per i figli morti nell'infanzia e soffocata dal peso del corsetto, dalla religione e da quel marito che la sorte le aveva riservato. I figli maschi trascorrevano la loro vita oziosa tra messe, passeggiate, sieste, giochi e baldoria, mentre le figlie galleggiavano come ninfe misteriose per stanze e giardini tra fruscii di sottovesti, sempre sotto l'occhio vigile delle governanti. Erano state preparate sin da piccole a un'esistenza di virtù, fede e abnegazione. I loro destini erano matrimoni di convenienza e maternità. In campagna assistettero a una corrida di tori che non assomigliava neanche lontanamente al brillante spettacolo di coraggio e morte della Spagna. Nessun abito ricamato da torero, niente fanfare, passione e gloria, ma solo una cozzaglia di ubriachi temerari che tormentavano l'animale con lance e insulti e che venivano catapultati nella polvere dalle cornate tra imprecazioni e risate. Il momento più pericoloso della corrida fu quando si dovette portar fuori dall'arena la bestia infuriata e ferita ma ancora viva. Todd ringraziò il cielo che al toro venisse risparmiata l'infamia definitiva della pubblica esecuzione, perché il suo buon cuore inglese preferiva veder morto il torero piuttosto che l'animale. Di pomeriggio gli uomini giocavano a carte a Tresillo e a Rocambole, riveriti come principi da un autentico stuolo di camerieri cupi e umili, i cui sguardi non si levavano da terra e le cui voci non andavano mai al di là di un mormorio. Pur non essendo schiavi, lo sembravano, lavoravano in cambio di protezione, di un tetto e di parte della semina. In teoria erano liberi, ma rimanevano con il padrone, per quanto fosse un despota e le condizioni di vita fossero dure, perché non sapevano dove andare. La schiavitù Era stata abolita 10 anni prima senza tanto chiasso. Il traffico di africani in quelle zone prive di piantagioni non era mai stato redditizio, ma nessuno denunciava il destino degli indios, privati delle loro terre e ridotti in miseria, né degli affittuari dei campi che, come gli animali, venivano venduti ed ereditati con la terra. Non si menzionavano neppure i carichi di schiavi cinesi e polinesiani destinati alle guaniere delle isole Chinchas. Se non sbarcavano, non c'erano problemi. La legge proibiva la schiavitù sulla terraferma, ma non diceva niente a proposito del mare. Mentre gli uomini giocavano a carte, Miss Rose si annoiava discretamente in compagnia della signora del Valle e delle sue numerose figlie. Eliza, invece, galoppava in aperta campagna con Paolina, l'unica figlia di Agustin del Valle che sfuggisse al modello languido delle donne di quella famiglia. Aveva parecchi anni più di Eliza, ma quel giorno con lei si divertì come se avessero la stessa età, entrambe con i capelli al vento e il viso al sole, intente a spronare le loro cavalcature. Signorine, Eliza Somers era una ragazzina piccola e minuta, con lineamenti delicati da disegno al tratto. Nel 1845, quando compì 13 anni e si cominciò a notare un accenno di vita e di seni, sembrava ancora una mocciosa, ma già si intravedeva quella grazia nei modi che sarebbe stata il suo più grande attributo di bellezza. L'implacabile vigilanza di Miss Rose diede alla sua ossatura la dirittura di una lancia. Durante le interminabili ore di esercizi di pianoforte e di ricamo, la obbligava a stare retta con una bacchetta metallica fissata alla schiena. Non diventò molto alta e mantenne sempre quell'ingannevole aspetto infantile che più di una volta le salvò la vita. Era talmente bambina che durante la pubertà continuò a dormire raggomitolata nello stesso lettino dell'infanzia, circondata dalle sue bambole e con il dito in bocca. Imitava l'atteggiamento svogliato di Jeremy Somers perché pensava che fosse segno di forza interiore. Con gli anni si stancò di fingersi annoiata, ma l'allenamento le servì per imparare a controllarsi. Eliza collaborava ai lavori domestici della servitù. Un giorno faceva il pane, un altro macinava il gran turco, uno faceva prendere aria i materassi e un altro faceva bollire il bucato bianco. Passava molte ore accucciata dietro alla tenda della sala a divorarsi i classici della biblioteca. Di Jeremy Somers, i racconti romantici di Miss Rose, i giornali arretrati e qualsiasi lettura a portata di mano, per quanto noiosa fosse. Da Jacob Todd si fece regalare una delle sue Bibbie in spagnolo e cercò di decifrarla con infinita pazienza perché la sua formazione scolastica era venuta in inglese. Si immergeva nell'Antico Testamento morbosamente affascinata dai vizi e dalle passioni dei re che avevano sedotto le spose altrui, dai profeti che castigavano con fulmini terribili e dai padri che procreavano con le loro stesse figlie. Nel ripostiglio dove si accumulavano le anticaglie, trovò cartine, libri di viaggio e documenti di navigazione dello zio John che le servirono per definire i confini del mondo. I precettori assunti da Miss Rose le impartirono lezioni di francese, di scrittura, di storia, di geografia e di un po' di latino, più di quanto venisse inculcato nelle migliori scuole per fanciulle della capitale, in cui, in fin dei conti, non si imparavano che preghiere e buone maniere. Le letture disordinate, come anche i racconti del capitano Somers, misero le ali alla sua immaginazione. Quello zio navigatore che appariva in casa con il suo carico di regali, metteva in moto la fantasia con le sue storie inaudite di imperatori neri su troni di oro massiccio, di pirati malesi che collezionavano occhi umani in scatolette di madreperla, di principesse arse sulle pire funebri dei loro anziani mariti. A ogni sua visita veniva rimandato tutto, dai compiti alle lezioni di piano. L'anno scorreva nell'attesa del suo arrivo e nel collocare spilli sulla cartina, immaginando le latitudini d'alto mare percorse dal suo veliero. Eliza aveva scarsi contatti con i suoi coetanei, viveva nell'universo chiuso della casa dei suoi benefattori, nell'eterna illusione di non trovarsi lì bensì in Inghilterra. Jeremy Summers ordinava tutto per catalogo, dal sapone alle scarpe, e si vestiva con abiti leggeri d'inverno e con il cappotto in estate perché si regolava in base al calendario dell'emisfero nord. La ragazzina ascoltava e osservava con attenzione. Aveva un temperamento allegro e indipendente, non chiedeva mai aiuto e possedeva il raro dono di diventare invisibile a suo piacimento, perdendosi tra i mobili, le tende e i fiori della tappezzeria. Il giorno in cui si svegliò, con la camicia macchiata da una sostanza rossiccia, andò da Miss Rose a comunicarle che lì in basso si stava dissanguando. «Non parlarne con nessuno, è una questione molto privata. Ormai sei una donna e dovrai comportarti come tale, le bambinate sono finite. È ora che tu vada alla scuola per fanciulle di Madame Colbert». Fu l'unica spiegazione che la madre adottiva le diede, tutta d'un fiato e senza guardarla, mentre dall'armadio prendeva una dozzina di piccoli asciugamani orlati da lei. «Bella fregatura, bambina. Adesso ti cambierà il corpo, ti si annebbieranno le idee e qualsiasi uomo potrà fare con te quel che gli pare», l'avvertì poi mamma Fresia, cui Eliza non poté non rivelare la novità. L'India conosceva erbe in grado di bloccare per sempre il flusso mestruale, ma si astenne dal somministrargliele per paura dei padroni. Eliza raccolse il monito con serietà e decise di rimanere vigile per impedire che tutto ciò avvenisse. Si fasciò stretto il busto con una striscia di seta, certa che se per secoli questo metodo aveva prodotto la riduzione dei piedi delle cinesi, come diceva zio John, non c'era motivo per supporre che non funzionasse per schiacciare i seni. Decise anche di dedicarsi alla scrittura. Aveva visto per anni Miss Rose scrivere sui suoi quaderni e immaginò che lo facesse per combattere la maledizione delle idee annebbiate. All'ultima parte della profezia, che qualsiasi uomo avrebbe potuto fare con lei quel che gli pareva, non prestò invece la stessa attenzione, semplicemente perché non riusciva a entrare nell'ordine di idee che ci potesse essere qualche uomo nel suo futuro. Erano tutti più grandi di lei di almeno 20 anni. Il mondo era sprovvisto di esseri di sesso maschile della sua generazione. Gli unici che le sarebbero piaciuti come mariti, il capitano John Somers e Jacob Todd, non erano alla sua portata. Il primo in quanto zio e il secondo perché innamorato di Miss Rose, come tutta Valparaiso sapeva. Anni dopo, ricordando la sua infanzia e la sua giovinezza, Eliza pensava che Miss Rose e Jacob Todd avrebbero potuto formare una bella coppia. Lei avrebbe potuto addolcire le asperità di Todd e lui l'avrebbe potuta riscattare dalla noia, ma le cose andarono diversamente. Nel giro di alcuni anni, quando ormai la capigliatura di entrambi si era imbiancata e la solitudine era diventata un'abitudine ben consolidata, si sarebbero incontrati nuovamente in California in strane circostanze, allora lui avrebbe ripreso a corteggiarla con la medesima intensità e lei avrebbe ripreso a rifiutarlo con la stessa determinazione. Ma tutto ciò avvenne molto, molto tempo dopo.